America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Siamo in procinto di partire per Lisbona, dove da domani si terrà il vertice NATO a livello di capi di Stato e di Governo, un vertice che durerà un paio di giorni, il 19 e il 20 di novembre. Il presidente Obama poi il 20 di novembre, alla conclusione del vertice NATO, avrà anche un vertice bilaterale con l'Unione Europea, vertice molto atteso perché quello precedente semestrale era stato cancellato unilateralmente da parte degli Stati Uniti. Ma torniamo a questo vertice NATO, molto importante perché Barack Obama si presenta con un documento che imposta le procedure di ritiro delle truppe militari della NATO dall'Afghanistan. Un documento che, in ultima analisi, mette la parola fine alle due guerre che si sono scatenate dopo l'attacco dell'11 settembre, due guerre sanguinose, costose, destabilizzanti, che sono durate oltre 10 anni e nel caso della guerra in Afghanistan dureranno fino al 2014, perché le truppe americane e le truppe alleate, secondo questo documento, continueranno ad essere impegnate al fronte con operazioni di tipo militare fino al 2014. Il 2011 è l'anno di svolta, l'anno in cui comincerà il passaggio delle consegne, ma non è l'anno del ritiro come alcuni pensavano. Dunque ci vorrà più tempo, però esistono dei parametri molto precisi. Il modello che si cercherà di seguire sarà non diverso da quello che si è seguito in Iraq e dunque l'escalation prima, il surge, che è quello che stiamo poi vedendo in questi giorni con operazioni che attaccano direttamente nei loro rifugi più segreti, più remoti, sia Al-Qaeda che i talebani, per poi gradualmente cercare di avviare un negoziato bilaterale. Abbiamo intervistato tempo fa Stéphane de Mistura, sentiamo la sua voce. Ve lo ricordo, Stéphane de Mistura è l'inviato del segretario generale dell'ONU a Kabul. E adesso è molto importante accelerare anche delle possibilità di un dialogo, nello stesso tempo riconoscere che c'è una fase militare che sta avendo luogo e che in qualche maniera sta procedendo. In poche parole, due binari. Come spesso avviene in queste fasi critiche di un inizio, di una fine, di un episodio di guerra. Dunque la politica del doppio binario, una politica che continuerà e che dovrebbe dare i suoi risultati. Dal punto di vista americano l'obiettivo è quello di portare da circa 260-265.000 a 350.000 le truppe addestrate afghane entro il 2014, di modo che l'esercito locale, l'esercito dello Stato dell'Afghanistan sia in grado di controllare e reprimere eventuali tentativi di rivoluzione da parte dei talebani. Altro punto importante: non si può escludere che ci sia un tentativo di escalation da parte talebana, da parte di Al-Qaeda, di attentati contro l'Occidente. Abbiamo visto che quelli tentati finora sono stati poi sventati, però non possiamo escludere che ci siano altri tentativi, quindi avremo comunque davanti a noi un periodo non facile. Ai microfoni di America 24, Maurizio Molinari, corrispondente della stampa dagli Stati Uniti. Maurizio, on the road again, abbiamo chiuso il viaggio asiatico che sembra ieri e già stiamo partendo per Lisbona dove ci sarà il vertice della NATO. Sei pronto a questo viaggio intanto? A una nuova maratona assieme al team dei White House Press Corps, al quale entrambi apparteniamo. Ecco, allora, sì, White House Press Corps in effetti suona molto bene. Allora, Maurizio, vertice NATO, qualcuno si domanda come mai continuano a esserci questi vertici della NATO, come mai continua a esistere la NATO, ma al di là della questione abbiamo visto che a Yokohama c'è stato un vertice con il presidente russo Medvedev, un vertice con dei contorni molto intriganti perché era la prima volta che i due leader si vedevano dopo il famoso scandalo delle spie. Ecco, raccontaci un po' questa storia dello scandalo delle spie? Ma quando si sono incontrati a Yokohama attorno al tavolo di legno al terzo piano dell'hotel Intercontinental, Obama sorrideva e la realtà vera è che Medvedev era furioso. E la volta precedente che si erano visti a Washington erano passate 48 ore e Obama aveva smantellato la rete di spionaggio messa su nei decenni precedenti dal servizio segreto russo, mandando su tutte le furie Medvedev. Ovviamente non ne hanno parlato, ma era nell'aria, e questa è la storia che ci portiamo anche dietro a Lisbona, una guerra di spie feroce che ruota attorno a un personaggio sexy, avvenente, molto brillante, seducente come Anna la Rossa. Ecco, ma c'è stata una notizia su Anna la Rossa, cioè è stata tradita dal suo capo in Russia, o sbaglio? Questo è stato l'ultimo colpo di scena, si pensava che fosse stata lei a beffare gli americani per tanti anni, in realtà era gestita da un super 007 russo che faceva la spia per gli americani, al punto che è stato lui a tradire lei e l'intero network solamente due giorni prima del summit precedente a giugno fra Obama e Medvedev, sparendo letteralmente nel nulla. Nessuno di noi sa dove il colonnello Shekfol è finito, ma probabilmente Obama, io credo sia uno dei pochi a sapere dove si trova. Dunque, guerra fredda, restano delle vestigia con le spie. La NATO ovviamente ha ragione di esistere, perché è un'alleanza che ormai va al di là della guerra fredda, ma si occupa per esempio di Afghanistan, è un'alleanza che protegge l'Occidente. Ecco, in questo contesto ti sembra che l'incontro a cui stiamo andando dunque avrà qualche cosa di produttivo? Sì, tanto sull'agenda afghana quanto nel rapporto con la Russia. L'agenda afghana, perché sappiamo, Mario, che andranno ad approvare il timetable, il calendario del phasing out, cioè il ritiro progressivo delle truppe per arrivare nel 2014 al compimento del passaggio dei poteri dalla NATO alle forze afghane, sul modello di quanto avvenuto in Iraq negli anni precedenti. E poi soprattutto la Russia, lo scudo antimissile è il grande nodo del futuro. Gli americani scommettono sull'ipotesi di un accordo, ma tutto credo sia legato anche all'approvazione dello START da parte del Senato americano, in quanto la Russia collega i due temi strettamente, cioè l'accordo sulla difesa antimissile sì, ma prima variamo lo START. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. La cantante Rihanna ha scalato le classifiche americane con il brano What's My Name, e quindi è arrivata, pensate, in una sola settimana al primo posto. Adesso è uscito il video, ha girato a New York, su questo disco, e di Rihanna dunque What's My Name. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!